bla, I get to bla bla bla. Mi presento, sono la N e la doppia S, quello che ieri sposava le commesse. Oggi sono quello che non perde più scommesse. Nel mio radar capto stronzi come SOS. Cerco la mia strada e non mi serve il GPS. Ho freni inibitori senza l'ABS. Ascolto rime scontate come all'OBS. E non è detto che io mantenga sempre le promesse fatte a chi mi chiama solo per interesse. Il mio futuro è nero se sono queste le premesse. È vero, canto come un cane, ma scrivo bene. Tu pensi di cantare bene, in più scrivi da cane. C'è chi ha i denti, ma non è il pane. Io non pago donne, c'è già il mondo che va a puttane. Per te rimare non è il mio mestiere, non sono sulla scacchiera. Io non sono il re, sono l'alfiere che protegge la regina, la mia rima. Dallo scaccomatto a chi si crede, come Rina. La la la, e poi tu bla bla bla. Continue critiche su quel che faccio. Troppa confidenza, t'ho dato un dito e ti sei preso il braccio. Ma non hai visto che nel terzo dito ricorda il nome, sono Ness. Zero perdono per chi mi ha tradito. E noi saremmo amici per la pelle, sei come l'11 settembre per le torri gemelle. Seppellisco falsi amici nel mio cimitero, sulla lapide il tuo nome è scritto per intero. Ascolto il pop dal primo giorno che passò in radio. C'era Faida Faida e gli scheletri ammassati nell'armadio. Da quel giorno sono 20 anni in rima. Nella mia vita si respira un altro clima, trovando uno stile di vita, la mia miniera. Di pop la religione, la rima la preghiera. Non lascio niente al caso, pure il minimo dettaglio. Attendo alle mine, prima o poi farai lo sbaglio. Ho rime anche un uomo, la tua vita è repentaglio. Sei nel mirino, il mio prossimo bersaglio. Il nome lo sai, la N e la doppia S. Il tuo non lo ricordo, mandami un SMS. Sono l'insignorante che scrive pezzi per le masse. Produco beats che fanno piangere le casse. Ti do rima in dono e tu non vuoi gradirla. Questa rima è unica e tu non puoi copiarla. La mia rima è grezza e tu non puoi capirla. Ieri davo per le porci, oggi do per le birra. La la la, e poi tu bla bla bla. Continue critiche su quel che faccio. Troppa confidenza, t'ho dato un dito e ti sei preso il braccio. Ma non hai visto che nel terzo dito ricorda il nome, sono Ness. Zero perdono per chi mi ha tradito. E noi saremmo amici per la pelle, sei come l'11 settembre per le torri gemelle. Seppellisco falsi amici nel mio cimitero, sulla lapide il tuo nome è scritto per intero. E non chiamatemi cantante, questo è solo un hobby, non lo faccio per il tuo contante. Sono un principiante, con la rima che scorre nel sangue, che va dritta al dunque e mi contraddistingue. In un mondo a senso unico, rima a doppio senso. Non ho amici perché dico quel che penso. Resto vero e la differenza salta agli occhi. Sono quello che ti sveglia dai 12 rintocchi. Incido la mia rima su questa traccia, come l'ago di Alan sulle mie braccia. Porto la storia dell'hip hop sulla schiena. Sono Ness, a.k.a. Pop for Life sulla scena. Porto la storia dell'hip hop nel mio cuore. Sono Ness, a.k.a. Pop my wife solo amore. C'è chi si tatua il nome dell'album sul braccio. Io la storia dell'hip hop e non c'è un pagliaccio. Se non l'hai capito, l'hip hop è la mia vita, dedicato a te che la trasformi in sfida. La la la, e poi tu bla bla bla. Continue critiche su quel che faccio. Troppa confidenza, t'ho dato un dito e ti sei preso il braccio. Ma non hai visto che nel terzo dito ricorda il nome, sono Ness. Zero perdono per chi mi ha tradito. E noi saremmo amici per la pelle, sei come l'11 settembre per le torri gemelle. Seppellisco falsi amici nel mio cimitero, sulla lapide il tuo nome è scritto per intero. La la la, sei tu la la la. E poi tu bla bla bla, anche tu bla bla bla. Shh.